perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sono una cosa seria i nostri soldi, Mauro, fai attenzione. Sono una cosa serissima, cara Deborah, buongiorno. Per caso ti ha scritto l'agenzia delle entrate? No, ringraziando il cielo, no, stamattina però è entrato un ospite che non chiude la porta, adesso lo sto guardando anche un po' male, ecco qua, perché c'ha la coda lui, no? La coda di paglia. Vuoi presentarlo subito? Lo presento subito, abbiamo... No, aspetta, che ci sono anche degli ospiti fuori dalla nostra porta che ci stanno salutando. Gianfranco Ursino, Plus 24, Il Sole 24 Ore. Che però sta facendo solamente confusione. Cosa penseranno i nostri amici che ci guardano su Facebook? Che sembra qua lo studio di Pippo e Topolino, non lo so. Buongiorno a tutti dopo questa bella presentazione. Devo dire un esordio particolarmente movimentato, perché frizzante, noi siamo una trasmissione movimentata. Perché noi siamo così. D'altronde dobbiamo, con la nostra consueta autorevole leggerezza, alleggerire, ma autorevolmente, gli argomenti di cui parliamo, perché sono sempre un po' complessi, tipo quello che apre oggi Il Sole 24 Ore. Cos'è che volevi dirmi? Ma per quello ti chiedevo se ti aveva per caso scritto l'agenzia delle entrate. Ringrazio doppiamente il cielo che non lo ha fatto, perché nel caso mi arrivasse una missiva, non lo so, se tu hai una partita IVA potrebbe arrivarti una missiva, perché oggi segnaliamo sul Sole 24 Ore, il nostro titolo principale, sono partiti i controlli contro l'evasione IVA. Bene, è un risultato di questi anche nuovi obblighi che via via si stanno inserendo, andranno a regime tra quest'anno e il prossimo, quindi controlli più stringenti, perché l'IVA, ohimè, tocca dirlo, è un'imposta molto evasa, molto controllo. Un pochino si lega questo tema all'ultimo che affronteremo oggi, i POS. Anche lì avremo qualcosa da dire sui POS, sul che insomma sono queste possibilità di pagare con il bancomat, ad esempio. Come sai, Deborah, c'è un obbligo, ma manca una gamba, come per tutte le cose che qua si fanno, e poi un pezzo manca sempre. C'è sempre un quasi, Deborah. Esatto, per esempio tu vai dal dentista e vuoi pagare con il bancomat. Ho detto dentista casualmente, potevo parlare di qualunque altra categoria professionale. Ma anche potrebbe essere un avvocato, esattamente, un commercialista. Allora, diciamo che c'è una norma che dice che tu puoi pagare con il bancomat nel caso non abbia contanti a disposizione, però il professionista può dirti non ce l'ho, e se tu gli rispondi ma scusa, c'è la legge che ti obbliga a mettermelo a disposizione. C'è la legge, ma non c'è la sanzione. E allora, se non c'è la sanzione, ohimè, loro non si sentono tanto obbligati. Perché disturbarsi più di tanto? Ne parleremo nell'ultima parte della trasmissione. Nella prima invece, qua devo introdurti nel magico mondo, Mauro, di Investire Informati. Noi abbiamo una rubrica che da tanti anni va in onda ogni giovedì. Abbiamo provato in questi anni a fare questo lavoro, aprire le pagine dei quotidiani finanziari, in particolar modo Il Sole 24 Ore, andare a caccia delle notizie più importanti, quelle che movimentano proprio i mercati finanziari, e le abbiamo spiegate ai nostri ascoltatori per renderli risparmiatori ed investitori più consapevoli. Più educati. E ecco, oggi guarda, ricominciamo. Io sono venuto con il blocco degli appunti. Benissimo. E adesso, come oggi si può vedere anche sulla nostra pagina Facebook, sì? Due di denari, cercateci, Due di denari trattino Radio 24. Benissimo. E vedrete che io prenderò numerosi appunti, essendo, devo ammetterlo, particolarmente ignorante in materia. Non è vero, non dire così. Guarda. No, è la verità. È la verità. Io oggi ti dico tutto, visto che tu mi hai raccontato le ultime novità sull'IVA, io ti racconterò oggi le ultime novità sulla MiFID. Caspita, ma che cos'è? Adesso te lo spiego, partiamo. Investire informati. È un tema molto delicato quello di cui parliamo questa mattina nel nostro approfondimento, perché sappiamo bene, Mauro, che in Italia abbiamo inanellato una serie di casi di risparmio tradito che non è che ci abbiano fatto fare una gran bella figura in tutto il resto del mondo. E non devo scomodare solamente Parmalat, Cirio e l'Argentina dell'inizio del 2000, ma andare a situazioni anche più recenti, delle quali Il Sole 24 Ore ha scritto moltissimo, le ultime, le banche risolte e le situazioni delle banche venete. Sì, con i risarcimenti, con tutto questo percorso che è stato anche tormentato dal punto di vista normativo, ed è, ci immaginiamo, magari ce ne occuperemo in una delle prossime puntate, volentieri, tormentato anche dal punto di vista procedurale per i risparmiatori coinvolti. Allora, parliamo oggi di MiFID 2, che è una sigla un po' complicata, ma che in realtà dovrebbe teoricamente essere entrata nel gergo abitudinario dei risparmiatori, perché spesso capita che vadano in banca, sottoscrivano un prodotto di investimento e e la banca contestualmente o il consulente che incontrano facciano firmare un bel po' di carta, un adempimento che magari non, così, a cui non assolviamo volentieri, che però ci tutela. E adesso adesso ho capito. E quando mi chiedono ma lei che studi ha fatto, esatto, quanti anni ha, è la signora MIFID, legge che te il lo Sole chiede. 24 Ore, ascolta Radio 24. Su quella domanda lì sei preparato, però sì, sì, su quello sono preparato, sulle altre un po' meno, esatto. E qui è l'occasione nella quale ti interfacci con la signora MIFID 2, perché per la seconda volta nel giro di 10 anni l'Italia ha recepito questa direttiva europea, della quale sa tutto però Gianfranco Ursino, Plus 24, il Sole 24 Ore. Diciamo quasi tutto, quasi cercheremo tutto, anche di colmare qualche lacuna oggi con l'aiuto anche degli ospiti. Esattamente, che quello che non sai lo sa invece Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, l'associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti. Tofanelli, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Allora, io direi anche, Mauro, di invitare i nostri ascoltatori ad intervenire. Volentieri. Con la consueta modalità. Allora, 349-238-6666, da questo numero potete mandare WhatsApp, SMS, però potete anche scriverci delle email, due di denari, attenzione, è scritto in lettere, due di denari @radio24.it, oppure potete telefonare 800 24 00 24. Cosa possiamo chiedere su MIFID? Se hanno fatto recentemente un investimento e quanta carta hanno firmato, se hanno firmato, se hanno compilato il questionario MIFID, che è quello che ti profila, ti fa la tua carta d'identità di risparmiatore, e in base a quello poi la banca dovrebbe suggerirti il miglior modo in cui impiegare il tuo denaro. Che sì, dici? Potrebbe vista essere... in chiave difensiva, dovrebbero evitarti di sottoscrivere strumenti che non sono adatti a te. Chiedo conferma al collega Gianfranco, e dovrebbe essere questo lo spirito di quelle domande che ti fanno in banca, che ti fanno lo sportello prima di farti sottoscrivere l'investimento. Certo, che cui prestiamo molto spesso poca attenzione, ci rende fastidio, ma è alla base di tutto quello che poi succede e che ci ritorna contro quando non sentiamo che per vendere le azioni delle banche venete hanno in banca, diciamo, riprofilato, riclassificato il tuo profilo di rischio, perché tu poi anche dall'altra parte non prestavi granché attenzione. La signora Maria, che era molto prudente, in realtà improvvisamente si è trovata ad essere un'investitrice particolarmente aggressiva, al punto da poter appunto sottoscrivere strumenti di investimento, quindi, in questo caso le subordinate delle banche o le azioni di quelle banche, che non erano invece adatte a quel profilo. Oltre a dare le risposte, quindi attenzione alla fine, prima di mettere la firma, di rileggere quanto viene riportato sui documenti. Certo. Questa è una regola basilare che vale per tutto. Esatto. La MIFID interviene su questo punto specifico, Gianfranco? La MIFID 2. La MIFID 2 interviene su questo punto specifico, nel senso che va a rafforzare quelli che erano già le tutele in atto, e quindi consentirà anche consente di fare ulteriori controlli e verifiche da parte di chi è deputato a farlo. Naturalmente c'è uno spostamento sempre di più su quello che era una disciplina in Italia che era basata sulla trasparenza. L'importante era comunicare i conflitti di interesse, anche vendere prodotti complessi e spiegarli al cliente, senza però sincerarsi se il cliente avesse capito, anche perché forse non si voleva nemmeno far capire al cliente qual era la complessità e il funzionamento del prodotto. Adesso invece cosa succede? La MIFID 2 chiede anche agli intermediari di appurare se il cliente ha capito, quindi chi fa i controlli potrà andare anche a verificare questi ulteriori principi che saranno sanciti. Quindi sa tutto, no? Nella buona volontà anche di andare a verificare quanto viene previsto dalla normativa. Certo, e poi c'è naturalmente una correttezza di fondo che mi pare di capire non deve mancare mai, cioè è chiaro che se insomma l'incaricato è un po' frettoloso e grossolano nel proporci queste domande, ecco, magari è il caso di prestare un pochino di attenzione in più, così come indicazione di linea generale di puro buonsenso. Certo. Allora, intanto, peraltro, leggendo in giro quelle che sono le nuove disposizioni contemplate dall'adeguamento italiano, dal recepimento italiano rispetto alla nuova direttiva, circolano già dei concetti strani denominati in inglese, ne cito un paio. Product governance, il mark to market, sono concetti complessi, appunto, definiti all'anglosassone, ma adesso noi li traduciamo grazie all'ausilio, appunto, appunto di Marco Tofanelli. Tofanelli, allora, secondo il vostro, non il vostro punto di vista, voi che siete anche un attore che sta discutendo per esempio in questo momento con Consob, no, per fare in modo che l'ordinamento italiano recepisca al meglio la nuova normativa, ci spiega quali sono i focus principali di MiFID 2, i focus principali che devono interessare la platea dei piccoli risparmiatori? Certo, grazie. Allora, velocemente, alcuni aspetti chiaramente saranno visibili al cliente, all'investitore, al risparmiatore, altri aspetti no, alcuni sono a monte, no? Altri sono a valle. Intanto una cosa che è stata detta prima, la preciso, il migliore interesse del cliente lo dice molto chiaramente adesso la normativa, l'attività è per garantire il miglior interesse del cliente, quindi quando si parla di contratti, attenzione, non è un contratto, perché il contratto presuppone, no, tra le parti che insomma in qualche modo ci sia soddisfazione, no, l'operatività è nel migliore interesse del cliente, questo deve essere molto chiaro al cliente, non sta facendo un contratto con la banca, è servito dalla banca, è un servizio che viene prestato al cliente e questo è importante perché quando io ho presenti quali sono i miei diritti sono in grado anche di farli, di tutelarli meglio, no? Quando parliamo della nuova profilatura, ha ragione Gianfranco Ursino, un tempo la profilatura era sul profilo di rischio, la propensione al rischio del cliente, adesso ho introdotto un altro concetto che è la tolleranza alle perdite, attenzione, sono due cose molto diverse, io posso avere una certa propensione però quando poi mi trovo a perdere l'approccio comportamentale è un altro e di questo adesso i questionari dovranno tener conto, è importantissimo in quella sede vedere che siano questionari fatti bene e rispondere bene. Veniamo adesso a questi aspetti che magari sono meno visibili, no? Product governance, target market. È una cosa importante che il cliente non vede, ma che è molto importante perché da sì, adesso. Ho detto mark to market, che è una cosa diversa, sì, il target market. Target sì. Market. Da adesso, sostanzialmente, quando viene ideato il prodotto, questo dal lato proprio del produttore, di colui che lo crea, deve già porsi quello che è appunto cosiddetto target market, cioè l'obiettivo di mercato, quali sono i soggetti a cui certi prodotti vanno dati, quali sono i soggetti a cui certi prodotti non possono essere dati ed il distributore oggi di questo deve tener conto, per cui c'è una, diciamo, un rapporto molto più forte a monte tra la fase di ideazione e progettazione e la fase di distribuzione che tutela necessariamente il cliente perché è seguito sin dall'inizio. Ed è previsto che bisogna in ogni caso garantire che poi il mercato presso cui quel prodotto viene distribuito, raccomandato, quello che vogliamo, con le tutele o meno dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, sia, diciamo, al centro di quello che era l'obiettivo iniziale. Ecco, un altro Fanelli, aspetto. Sì. Sì, no, volevo, la interrompo per chiederle un passaggio sui costi, perché ecco, spesso il costo arrivando. Dei prodotti è proprio. Stavo arrivando. A cuore. Un secondo punto importante è questo, anche qui abbiamo un termine che non è inglese, latino, ex ante ed ex post, cioè oggi come oggi c'è una trasparenza informativa che sarà completamente diversa, ovviamente ci vorrà un po' di tempo perché partiamo nel 2018, a fine 2018 avremo la cosiddetta rendicontazione ex post, che è molto importante perché ne avremo un ex ante, cioè immediatamente devo riuscire a dare al cliente il costo complessivo. Quindi dal primo gennaio comunque avremo questa, questa relazione questa nuova. È una, grande, diciamo, è la cosa è importante. È una grandissima rivoluzione. Questa che è quella senso. Che poi dal punto di vista processuale le banche stanno trattando con grande, diciamo, no, attenzione, perché proprio è un impatto molto importante. Ma ripeto, sarà molto importante alla fine, quando noi avremo esattamente quanto mi è costato in termini percentuali. In termini assoluti, è quello che volevo aggiungere. Infatti. Cosa vuol dire esattamente? Vuol dire che tu saprai su 10.000 euro, no? Non più che ti hanno, come c'era già oggi, nelle centinaia di pagine di rendicontazione che uno riceveva, che il 2%, lo 0,5%, lo 0,9% dei tuoi investimenti sono stati prelevati, no? Dai vari intermediari che ci sono, certo, in commissione e tutto quanto adesso. Adesso dovranno dirti 200 euro. Ci sarà maggior consapevolezza. Voi capite, certo, che ragionando in euro la gente, anche quando vedrà che invece di 10.000 euro avrà 9.900 euro, quindi sta perdendo, vede che c'è l'intermediario che ha collocato, che ha gestito il prodotto, che si va a prelevare 200-300 euro di quei 9.900 che gli sono rimasti, capisce bene che c'è maggior consapevolezza ragionando in euro e non più in termini percentuali. Quindi Gianfranco, noi dobbiamo leggere, dovremo leggere con più attenzione questi plichi di carta che spesso ci arrivano, a volte anche in formato per email, eccetera. Che è una cosa che stanno segnalando già gli ascoltatori, arriva tutto in digitale. Oggi come faccio anche, no, a vabbè, a parte che si può sempre stampare se uno è affezionato alla carta. Si può sempre stampare tutto e si può sempre chiedere tutto anche, voglio dire. Ecco, esatto, altro. Prima di firmare ci si può prendere del tempo adeguato. Quindi scusami Mauro che ti ho interrotto, stavi completando una domanda. No, volevo proprio puntualizzare su questo che diceva Gianfranco, questi prospetti che non sono, questi resoconti, scusami, che non sono sempre il massimo della chiarezza e della leggibilità, dovrebbero guadagnare invece in leggibilità, cioè dovrebbe essere comprensibili anche a chi è meno avvezzo a trattare questi aspetti con la banca. Certo, perché uno si spaventa a volte trovandosi, no, a questi voluminosi fogli, diciamo, sia in digitale che in cartaceo, e non si nemmeno si avvicina poi alla lettura. Sì. In realtà, no, cercando di semplificare al massimo, sintetizzare le informazioni, dovrebbe aiutare con queste informazioni mirate che dovrebbero, certo, arrivare direttamente nella testa delle persone, perché il fatto di ragionare in euro, no, è molto importante, non c'è più una percentuale. Ecco, c'è un ascoltatore soltanto che chiede come fa in tutto questo il risparmiatore italiano, che sono che è tra i meno competenti a livello finanziario, ce lo documentano continuamente fior di ricerche, a valutare se un questionario di profilatura a quel punto sarà fatto bene o meno. Marco Tofanelli. Ma intanto esiste la concorrenza, no? Allora si va da uno e poi si va da un altro e si cerca di vedere, insomma. È ovvio che è lì che molte volte io riesco poi a comprendere, perché anche quando vado a comprare un'auto, io non sono un ingegnere, non è che sono in grado, però poi ne vedo una, ne vedo un'altra, immagino quale possa essere quella più vicina ai miei bisogni. E poi il compito molto vero, ed è quello che dicevo all'inizio, attenzione che il servizio è al cliente, sta dalla parte del soggetto che deve, e qui volevo introdurre un'altra novità molto importante, secondo me è tra le più importanti, diciamo, della MiFID 2, sta al soggetto che raccomanda il prodotto anche far sì che il profilo, il questionario sia un questionario svolto secondo determinati requisiti. C'è l'autorità di vigilanza comunque alla base, sì, che verifica. Sono cambiate le norme oggi e quindi quei criteri devono esserci, non possono non esserci. Prima non erano richiesti, per cui era sufficiente dire come sei, aggressivo, moderato, va bene, facciamo più o meno così. Adesso non è più così, quindi il risparmiatore intanto può confrontare, e comunque è una norma che deve essere rispettata dalla banca. Però dicevo, ed è, scusatemi, introduco, che sono gli altri due termini inglesi, knowledge and competence. Da adesso chiunque si rapporta con il cliente, e questo non vale più soltanto per il consulente, l'ex promotore finanziario, il consulente avviato all'offerta fuori sede o il consulente autonomo quando iniziano ad operare, ma vale per tutti quanti finalmente, diciamo, i soggetti che hanno relazione con il cliente anche allo sportello, perché era lì che c'era la grande manchevolezza, se vogliamo, devono avere dei requisiti di competenza obbligatori, e quindi knowledge and competence, competenza e conoscenza, quando vanno a raccomandare dei prodotti. Prima questi requisiti erano molto rimessi, diciamo, alle parti, ai soggetti che facevano formazione, sicuramente nel mondo delle reti c'è sempre stata, però adesso è un concetto che viene esteso, quindi anche qui il cliente viene ad essere molto più tutelato di quanto non potesse esserlo prima. Poi ci saranno sempre, purtroppo, casi in cui questo non accadrà, casi di malagestio, casi di malaffare, lì bisogna sempre stare attenti, perché purtroppo ci sarà sempre, però tendenzialmente noi andiamo molto molto a migliorare rispetto anche a quello che era il rapporto precedente tra cliente e sportello, soggetto con il quale io mi rapportavo per acquistare un prodotto. Insomma, poi abbiamo ancora tutto il tempo per prepararci a tutte queste nuove disposizioni che saranno operative dall'inizio dell'anno prossimo, e ribadiamo ancora la regola di condotta di buonsenso di massima, Mauro. Se non ci convince quello che ci propongono, basta dire no e prenderci tutto il tempo necessario per fare una scelta consapevole. Infatti, no? Perché spesso capita a molti di noi, forse a tutti noi, di sentirsi un po' in difetto, magari di non voler fare anche cattiva figura, mostrarsi magari più informati di quello che realmente si è, e questo io trovo che sia un comportamento che, quando lo adottiamo, è assolutamente sbagliato. Non bisogna vergognarsi di chiedere, di altre cose forse bisogna vergognarsi, ma non di chiedere queste, specialmente quando si tratta dei nostri soldi. Allora, tenete a mente bene quello che stiamo dicendo fino a questo momento, perché guardate che con Investire Informati torna il domandone, quindi pronti anche a ricevere un nostro omaggio. Il mio bancario è un consulente. Lui mi risponde di domenica, risolve tutti i miei problemi, senza neanche farla predica. Questo è l'indizio del nostro omaggio di oggi, gentilmente offerto da Mauro Meazza. Sì, da Mauro Meazza nella sua veste di componente dei Chapter 11, questo gruppo di pop economico tributario con venature giuslavoristiche, composto, fondato da me e altri due colleghi del Sole 24 Ore. Mi piace dire che noi ci esibiamo abitualmente per beneficenza. Bene, assolutamente. E allora, per beneficenza, facciamolo vedere. Guarda che io sono più vicina al video. Eccolo qua, per tutti gli ascoltatori radiofonici, diciamo che questo è il vostro CD storico. Sì, che si chiama Ma ce l'avete il CD? Esatto, e così lo faccio vedere anche su Facebook. Questa. Allora, se risponderete più tardi bene al nostro domandone, ve lo invieremo molto volentieri. D'altronde non riescono a venderlo perché non è in vendita. No, non è in vendita. Esatto, non quindi, è in vendita, viene quindi regalato. Possiamo solo regalarlo. Allora, Gianfranco Ursino, adesso devo andare a raccontare la borsa di stamattina, ma un minutino, un commento su un altro aspetto di questa MiFID 2 voglio farla. Rispetto alla prima versione, al primo recepimento, sono passati già una decina di anni e tanti casi di risparmio tradito in Italia. Secondo te, per esempio, gli ultimi, la questione delle obbligazioni azzerate, si sarebbero potuti verificare con la disciplina nuova? Allora, se gli abusi, come diceva prima Tofanelli, no, anche ricordava, continueranno ad esserci da parte degli intermediari, sicuramente questi casi si potranno ripetersi. Naturalmente la disciplina, la MiFID 2, introdurrà nuovi elementi per rafforzare queste tutele, ma se dall'altra parte ci troveremo da una parte gli investitori, ma l'abuso forte che non rispetto fanno se aggirano la legge, casi. Ci sarà una sanzione anche per queste persone, un controllo da parte delle famose autorità di vigilanza più rigido? Ci sono elementi per fare un controllo più rigido, ci sono molti più elementi, perché si cercherà di giocare d'anticipo. Il fatto che si diceva che si ritiene anche corresponsabile il produttore, perché chi produce, chi confeziona il prodotto, no, naturalmente deve stare attento che anche chi lo vende alle persone giuste. Quindi ci sono, ma questa è una delle tante cose che vengono introdotte, che vanno a rafforzare queste possibilità di fare dei controlli e andare quindi a trovare, però rimane sempre comunque la possibilità di fare qualche abuso, qualche riprofilatura, qualche... Purtroppo non c'è una legge per vietare i ladri, ad esempio, no, esatto. Quindi si può fare una legge che li punisce quando, certo, commettono il reato. C'è un ascoltatore, adesso vado subito con la borsa, Peter, un ascoltatore che dice: nella mia banca con la MiFID mi dicono che non potrei teoricamente comprare neanche dei bot, quindi bisogna girare il sistema con risposte fittizie. Vabbè, ma mi pare curioso, motivi? Però infatti vorrei, magari se, dopo la borsa sentiamo Tofanelli ancora su questo, assolutamente, punto. Poi c'è anche Giorgio da Forlì che vuole dire la sua, ma prima di tutto, Mauro, per l'appunto, agevolami la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. A te il privilegio di fare il primo domandone della stagione estate-autunno di Due di Denari, investire informati, caro Ma Mauro. Grazie, Deborah. Prego. E allora fate attenzione, l'abbiamo detto nella prima parte, dovete sapere, dovete dirci sì, in non che abbiamo anno. Proprio detto specificatamente, ma abbiamo fatto passare un concetto da cui si capiva. Chiusa, sì, allora, nella prima parte vi abbiamo segnalato come arrivare alla corretta risposta e la domanda è: da che anno è entrata in vigore in Italia MiFID 1? Vogliamo sapere l'anno, potete anche mandarci soltanto le quattro cifre che compongono l'anno. No, io generalmente chiedo però la telefonata per guadagnarsi l'omaggio, Mauro, quindi 800 24 00 24, dato l'omaggio di pregio, oggi ci tengo particolarmente che chiamino al telefono. Sono lusingato. Il CD dei Chapter 11. Allora, che cosa c'è rimasto da chiarire rispetto a tutto quello che stavamo raccontando di MiFID 2, che invece entra in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, ma dobbiamo prepararci perché saremo più tutelati come risparmiatori. Volevo solo fare una segnalazione, poi vi lascio il microfono. Il tema della consulenza, la differenza fra quella indipendente e quella su mandato di una banca, di una società di gestione del risparmio, di una SIM, la faremo appositamente una puntata su questo mondo, perché me la stanno caldeggiando in tanti. Chiusa parentesi, oggi il nostro focus è sul risparmiatore finale e cosa deve aspettarsi rispetto a tutte le novità. Io volevo chiedere a Gianfranco Ursino, ma anche a Tofanelli, se siamo pronti con tutte le parti attuative, perché, scusatemi, ho un po' questo vizio da norme e tributi, però a volte mancano sempre dei pezzetti che si scopre sul, proprio alla vigilia, che erano molto importanti. Allora, Gianfranco, c'è tutto o ancora ci manca qualcosina per partire come si deve? C'è naturalmente in consultazione un regolamento CONSOB che dà attuazione a quello che è la procedura di ricepimento della direttiva in Italia. E quindi ci vanno a definire, no, nei minimi dettagli quelli che gli operatori si attendono, anche perché si devono adeguare, no, da qui a inizio anno, per essere pronti poi naturalmente ad offrire il servizio MiFID 2 compliant, no, agli investitori. E quindi ci sono ancora questi passaggi da fare. Se c'è qualcosa, forse Tofanelli, che più nello specifico vuole precisare su questi aspetti. Che tra l'altro mi ha raccontato che ha passato le vacanze estive un po' come, in realtà, come dire, a distanza. Sì, perché la consultazione CONSOB, che è il modo agli intermediari di dire la loro, no, prima di emanare definitivamente il regolamento, scade il 30 di settembre, giusto Marco? No, è scaduto il 21 agosto. 21 agosto? La prima. Che giornata, ecco, che è stata scelta. È già scaduta. La seconda è un'altra, quella che riguarda appunto l'attività, diciamo, di consulenza per quanto riguarda l'operatività dell'organismo, ma sul regolamento intermediari di attuazione è scaduto il 21 agosto, ecco perché stavamo lì anche il 15. Però due cose. Il regolamento è l'ultima, diciamo, l'ultima opera che deve essere messa in atto dai nostri regolatori, ma in realtà recepisce molta parte di un regolamento delegato che è direttamente europeo, che è direttamente applicabile. La norma ormai è molto cambiata, no? C'è l'attività normativa. Abbiamo il TUF cosiddetto, appunto quello che recepisce oggi la MiFID 2 e sostituirà il testo unico TUF della finanza, MiFID 1 della vostra domanda. Ma in realtà la direttiva, c'è una direttiva di secondo livello, ci sono regolamenti delegati, direttive di attuazione, che hanno direttamente, sono già applicabili, quindi anche questo regolamento recepisce in parte, richiama delle norme che sono direttamente applicabili. Ma oramai ci siamo, dal gennaio 2018, diciamo, deve tutto quanto partire. Volevo un attimo cogliere l'occasione per riferirmi al discorso prima della riprofilatura, no? Della profilatura che le facciamo fare. Il signore dicevo, che secondo sarà, la sua banca non può neanche investire in un bot. Allora, premesso appunto che sul comportamento di uno ce ne sono tantissimi che appunto si comportano correttamente, no? E quindi non solo le norme, ma anche eticamente gente che si comporta correttamente, persone che, insomma, che hanno a cuore il mestiere e hanno a cuore le persone che hanno davanti, e io direi che è la gran parte. Per quanto riguarda la profilatura, ad esempio, noi mettendo a disposizione un po' anche quella che era l'esperienza dell'associazione in termini di indicatori di anomalia, con l'OCF che citavamo poco fa, che è questo organismo a cui verranno demandate le funzioni di vigilanza sull'attività dei consulenti. Abbiamo individuato proprio come indicatore di anomalia la cosiddetta riprofilatura opportunistica, cioè gli intermediari devono verificare se ci sono dei cambi di profilo da parte di alcuni consulenti che sono in occasione del lancio di nuovi prodotti, e andremo, e verrà quindi questo trasmesso poi all'OCF, di modo che possiamo valutare se sostanzialmente qualcuno sta facendo queste cosiddette riprofilature opportunistiche. Questo lo facciamo come indicatore perché informaticamente i flussi si gestiscono, ma voi immaginate la difficoltà se no se noi verificare, certo, consulente per consulente. Quindi anche da questo punto di vista stiamo lavorando per cercare sempre di migliorare e di far sì che il comportamento sia sostanzialmente di tutti, insomma, o quantomeno di quasi veramente tutti nei confronti dei clienti. Allora, io devo sentire anche adesso un esperto che abbiamo interpellato per farci raccontare un po' questa giornata finanziaria, Mauro, di attesa rispetto alla riunione odierna della Banca Centrale Europea, perché è il tema più importante, visto che dovremo sapere se Mario Draghi è intenzionato o no a mantenere gli stimoli monetari ancora in corso, perché poi anche queste decisioni che sembrano prese molto distanti da noi ricadono direttamente nel nostro portafoglio. Sì. Abbiamo un sacco di puntate di denari da fare, però forse un ascoltatore vale la pena sentirlo. Sentiamolo. C'è Giorgio da Forlì. Giorgio, benvenuto. Ah, buongiorno a voi. Due veloci considerazioni, anzi una veloce considerazione e una domanda. Può andare subito la domanda, Giorgio, perché è tardissimo, grazie. Sì, allora la domanda è da un punto di vista giuridico, cioè le 70 pagine che mi hanno fatto firmare, io, tenete conto che sono laureato in economia e commercio, sulle quali, delle quali non ho capito moltissime cose, perché c'è una terminologia estremamente tecnica. Io mi chiedo, davanti a un giudice, ma cioè, la mia firma conta veramente? Marco Tofanelli, cioè, ma queste saranno sempre 70 a partire da gennaio, peraltro. Allora vabbè, bisogna dire documento. Faccio andiamo velocissimi. Si sta lavorando moltissimo anche su questo. Cioè, adesso si sta lavorando su altri settori, per esempio, per semplificare tantissimo il prospetto, perché il prospetto possa finalmente essere un documento che il cliente in poche pagine comprende. L'informazione, perché sia chiara, è chiaro che deve essere molto concisa. Purtroppo questo si scontra anche con la necessità di dover dare una serie di informazioni. Allora, bisognerà rinunciare ad alcune informazioni e si avranno quelle che sono veramente chiave. Fino a che purtroppo bisognava darle tutte, questo non è la banca che decide di, sono informazioni che deve dare. Quelle 70 pagine purtroppo fanno parte di come oggi è strutturato, ed è strutturato in maniera ridondante sicuramente. Allora, dunque, due cose. O rispondiamo al domandone? No, facciamo rispondere al domandone, facciamo perché rispondere ci tengono. Al domandone a questo punto, li abbiamo dopodiché convocati. Vado ai mercati. Allora, Paolo da Trento, benvenuto. Buongiorno Deborah, sono Paolo. Sì. Allora, ci dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. E un saluto anche ai suoi ospiti. Vada. Io devo essere sincero, la trasmissione non l'ho sentita, però credo di ricordare il 2007. La risposta è esatta. E adesso Mauro Meazza canta in diretta per lei, con il sottofondo anche di Gianfranco Ursino, se vuole. Sicuramente, ma più avanti, dopo le informazioni sulla viabilità e sui mercati. Molti ascoltatori su WhatsApp dicono, vabbè, io la risposta non ce l'ho, però voglio lo stesso il CD. Adesso magari vediamo se possiamo esprimere tutta la nostra generosità in questo senso. Eccolo qua. Lui mi risponde di domenica. Stefano Gianti, non è capitato in una gabbia di matti questa mattina. Noi continuiamo a conservare la nostra verve, possibilmente, se ce la facciamo, autorevole, ma con un po' di leggerezza. Dobbiamo raccontare quello che succede sui mercati finanziari. Senior Business Manager di Swissquote, buongiorno. Gianti, buongiorno eccoci tutti. Qua, le devo dare questo incarico in un minuto e mezzo di raccontarci due cose: perché i mercati non sono stati particolarmente spaventati dalla crisi coreana e cosa succede oggi a Francoforte, da dove vuole partire? Beh, iniziamo dalla prima domanda, nel senso, la crisi coreana finora fortunatamente è stata ancora breve, è normale che segni di incertezza molto forti ci sono stati soprattutto il 28 e il 29 agosto, quando effettivamente c'è stato il missile che ha sorvolato il Giappone. Di là c'è stata effettivamente una piccola corsa ai beni rifugio, che è durata di fatto soltanto due giorni di borsa, quindi classici beni rifugio come franco svizzero, yen sul mercato valutario e bund tedesco sono stati assolutamente ben comprati. Forse il maggior protagonista, anzi il maggior protagonista è stato l'oro, che ha avuto un buon rialzo e ha strappato su livelli di prezzo che non vedevamo da un po' di tempo, e la corsa tra l'altro sta ancora in maniera blanda continuando, quindi è vero che c'è ancora un rischio on sui mercati, quindi si vanno ancora a comprare azioni, tendenzialmente i mercati tendono pian piano a risalire, in attesa comunque anche della riunione di Mario Draghi di oggi, però c'è stata d'altra parte una piccola corsa verso i classici beni rifugio. 30 secondi, Mario Draghi oggi dice qualcosa sulla rimodulazione del quantitative easing, il piano di acquisti di titoli di Stato e obbligazioni in termini appunto di stimoli monetari, oppure no? Cosa vi aspettate? Assolutamente sì, la riunione di oggi è davvero molto attesa. Mario Draghi mi ha fatto essere molto bravo a fare capire e non fare capire, perché sicuramente darà molti più dettagli nella riunione di autunno, come promesso, quindi sarà quella della prossima, quella di ottobre, quindi lì farà capire esattamente la tempistica. La riunione di oggi comunque è molto attesa, soprattutto anche per un eventuale taglio alle stime dell'inflazione, soprattutto anche per un eventuale aumento della spesa sul prodotto interno lordo per quanto riguarda l'Unione Europea, e attenzione, perché comunque l'euro dollaro in attesa di questo si sta apprezzando, rafforzando molto. Grazie. Grazie a Stefano Gianti, Swissquote. Noi abbiamo terminato sia la parte sulla MiFID, abbiamo omaggiato i nostri ascoltatori del tuo CD, Mauro, salutiamo Marco Tofanelli e Gianfranco Ursino. Ed è il momento. Grazie, del buongiorno. Buongiorno. Allora adesso è il momento del traffico. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Due di Denari. Milano. Due giorni fa sono andato dal dentista per un piccolo intervento. Al momento del pagamento, vista la cifra considerevole e avendo con me pochi contanti, chiedo di pagare con il bancomat. Il dentista mi dice che non possiede un POS. E quando gli faccio notare che per i professionisti è ormai obbligatorio averlo, lui mi risponde che comunque non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui l'esercente ne fosse sprovvisto. È realmente così? Non esiste ancora una norma che indichi quali sanzioni applicare in questi casi? E io potrei rifiutarmi di pagare in contanti in una situazione come questa? Il POS, chi l'ha visto? Il POS, chi ha visto il POS? No, allora bisogna dire due cose. Intanto, innanzitutto salutare Giovanni Parente, il collega Giovanni Parente che è in collegamento da Roma. Buongiorno Giovanni, grazie. Buongiorno a voi, grazie. Perché Giovanni è uno degli esperti di molte norme, tra le quali anche questa. E poi dire che in effetti ci aspettavamo tutti un'entrata in vigore rapida di queste sanzioni che avrebbero punito chi non aveva ancora un POS, quindi la possibilità di pagare con il bancomat. Però dobbiamo segnalare che al momento non esiste ancora alcuna sanzione. Non so, Deborah, se a questo punto vogliamo, visto che abbiamo tirato in ballo i dentisti, ma sì, è casuale. Esattamente, avrei potuto parlare di qualunque altra categoria, però tu basta che ne citi qualcuna e subito il diretto interessato giustamente si indispettisce. Allora, a nome di tutti i dentisti vogliamo ascoltare Carlo da Genova. Buongiorno Carlo. Ciao a tutti, sono Carlo, grazie. Buongiorno, che avete chiamato. Allora, sono un dentista e non sono indispettito. Sono indispettito per un'altra cosa, perché ponete l'accento sul fatto che non ci sia una sanzione. Ma la sanzione più bella ce l'ha il cliente, il paziente, sia nostro che di chiunque altro professionista, che se il professionista o chiunque non abbia il POS, io non sono il paziente, non è obbligato a darmi dei contanti o degli assegni, basta non pagare. Vabbè. Sbaglio? Ha capito? Abbiamo compreso benissimo, certo. Non è che il paziente, perché io non sono indispettito su quello, sono indispettito sul fatto che pognate l'accento, il dentista fa il furbo e non ha il POS e quindi può fare il nero. Come dire, guardare le cose da differenti punti di vista. Carlo, grazie. Grazie Carlo, buon lavoro soprattutto, essendo lei dentista mi raccomando non si indispettisca troppo. Allora Giovanni, ci spieghi tutto questo articolato provvedimento che ha previsto il POS, però non ha le sanzioni, però in realtà potrebbero arrivare rapidamente. Dici un po' Giovanni come stanno le cose. Mauro, lo dicevi tu prima, no? L'Italia è fatta di grovigli di norme attuative che dovrebbero arrivare e non arrivano. Allora parliamoci chiaro, c'è la norma che doveva prevedere le sanzioni per chi non si dotava di POS, quindi strumenti elettronici per i pagamenti con bancomat o carta di credito, doveva arrivare entro il 1 febbraio 2016, perché si trattava di una modifica di una precedente legge che era arrivata all'epoca del governo Monti. Appunto si era deciso di prevedere questa sanzione, perché un obbligo senza sanzioni di solito è un obbligo che può essere facilmente aggirato, però insomma dal 1 febbraio 2016 siamo ancora a settembre 2017 e ancora non si è fatto nulla. Quello che abbiamo saputo nelle ultime ore è che si sta lavorando, che si cerca di portare a termine questo decreto che deve essere adottato sia dal Ministero dello Sviluppo Economico sia dal Ministero dell'Economia, e probabilmente tra fine settembre e metà di ottobre dovrebbe finalmente vedere la luce e quindi essere appunto operativa questa sanzione. Sanzione che di fatto dovrebbe essere graduata a seconda di alcune situazioni e probabilmente si prevederanno alcuni tipi di esenzioni. Vi faccio un esempio: ci sono degli studi professionali associati in cui ci sono ad esempio professionisti che non hanno diretto contatto con la clientela, ma è solo il dominus dello studio che di fatto fattura o ha un rapporto con la clientela. In quel caso l'associato non dovrebbe dotarsi di POS, ma soltanto il reale titolare dello studio. Questa è una delle esenzioni allo studio. Un altro aspetto, ed è uno dei nodi per cui questi decreti non sono stati ancora adottati, è quello legato al tema delle commissioni bancarie. Nei prossimi giorni sono previsti alcuni incontri sia con l'associazione bancaria sia con alcune categorie di esercenti per cercare di risolvere il problema delle commissioni e quindi delineare finalmente mente questo obbligo con sanzione e con una in qualche modo tentativo di calmierare la questione delle commissioni, soprattutto per quei pagamenti in cui di fatto per l'esercente non ci sarebbe margine, ma ci sarebbe un costo secco rappresentato addirittura dal costo della commissione per chi paga con moneta elettronica. Infatti, Giovanni, perché proprio ieri, tra l'altro, il vice ministro Casero, vice ministro dell'economia, ha detto: mi vedrò presto con i tabaccai sull'obbligo del POS, perché le obiezioni che mi sono state fatte sui costi, sulle commissioni, sono assolutamente sensate, quindi lavoreremo per calmierare questo tipo di costi. Abbiamo anche il calzolaio che ci scrive, lui ci racconta che ha mandato una mail a matteo@gov.it, non so perché l'abbia mandata Matteo, deve cambiare nome, sì, dicendo che è disposto a munirsi di POS se le spese però non fossero a suo carico e non ci sia alcun costo sugli incassi né bancari né in termini appunto di costi sulle transazioni. Ma allora qui io vorrei chiamare ancora in causa Giovanni. Quest'obbligo, sì, Giovanni, è stato introdotto perché si voleva incentivare la tracciabilità e quindi combattere l'evasione. Abbiamo aperto la trasmissione di questa mattina proprio parlando del tuo articolo sulle lettere per le verifiche sull'IVA. Allora è evidente che talvolta si è portati a dimenticarsi di dichiarare qualcosa al fisco. Però se, come dicevi tu, non c'è una sanzione, un obbligo senza sanzione poi rimane inefficace, rimane una lettera morta. Un minuto, Giovanni. Assolutamente sì, di fatto la tracciabilità è uno degli strumenti che viene adottata per combattere l'evasione fiscale, però Mauro e Deborah, ovviamente bisogna anche dire che il fisco di dati ne sta accumulando tanti. Ora bisogna capire se sarà effettivamente in grado di incrociarli tutti e di ridurre quello che si chiama tax gap, no? Gli economisti lo chiamano così, da noi lo chiamiamo evasione fiscale nero, che è un problema molto diffuso ancora. Sì, in Italia, Giovanni, potremmo tradurre con quello che dovremmo incassare e quello che invece realmente incassiamo, nel senso quello che l'erario dovrebbe incassare. Giuseppe ci scrive: non sono un dentista, ho un POS per la mia attività turistica, ma è veramente troppo caro, le commissioni sono troppo alte. Insomma, signor Casero, veda un po' lei di fare qualcosa non solo per i tabaccai ma anche per tutte le altre attività commerciali e professionali. Allora, caro Mauro, torniamo domani in diretta, che ne dici? Ma volentieri. È una bella idea. Tu hai impegni per no, domani? No, per domani alle 11 sarò qua presente. Giovanni, grazie per essere stato con noi e a tutti gli ascoltatori buona giornata. Certo, e nel frattempo se vi manchiamo scriveteci 2didenari@radio24.it.